Letture di Radio 24. La sesta stagione, romanzo d'esordio del musicista e compositore Carlo Pedini, è ambientato a Civita Turrita, paesino dell'Appennino toscano. Attraverso la storia della piccola comunità, raccontata in prima persona da Don Piero Menardi, il libro ripercorre i mutamenti della società italiana e della Chiesa dalla Seconda Guerra Mondiale fino agli anni di piombo. I personaggi e le loro storie si intrecciano con i piccoli e grandi eventi storici e religiosi con i quali sono chiamati a confrontarsi. Come avviene, ad esempio, nel maggio del 1946, quando Don Piero, il vescovo Monsignor Giuseppe Angelici e il suo segretario Don Francesco Canessa si trovano a discutere della nuova enciclica Dei Pare Virginis Mariae, con la quale Papa Pio XII chiede all'Episcopato di esprimersi sulla definizione del dogma dell'Assunzione in Cielo di Maria. Era una questione dibattuta da molti secoli e che dopo le apparizioni di Lourdes Fatima pareva aver trovato il giusto momento per una sua definitiva soluzione. In particolare, appariva un po' strano che la Chiesa festeggiasse da secoli l'Assunzione di Maria, senza che questo concetto fosse di per sé acquisito in modo ufficiale. La festa del 15 agosto risaliva addirittura al VII secolo, come festa del transito di Maria, ma già un paio di secoli dopo era comunemente sentita dal popolo come la festa dell'Assunzione. Qualche teologo dell'epoca aveva cercato di individuare alcuni fondamenti del concetto: la maternità divina che dava dignità analoga al corpo della madre, la permanenza del figlio nel corpo della madre che ne decretava l'effettiva unione, la miracolosa concezione da parte di una vergine e via discorrendo. Ma erano argomentazioni che non avevano trovato consenso unanime, preferendo la maggior parte degli autori lasciare aperta la questione come uno dei misteri di Dio. E il vescovo iniziò a leggere il contenuto dell'enciclica, saltabeccando fra l'originale latino e una traduzione che aveva approntato nel corso della mattinata allo scopo di farla circolare nella diocesi. «Quanti disastri l'Unità d'Italia!» esclamò Don Canessa afflitto. «Parole sante!» confermò il vescovo. «Come sarebbe, eccellenza?» chiesi io, non riuscendo a capire. «Ma la questione dell'Assunzione era stata già posta nel concilio del secolo scorso. Non sappiamo come sarebbe andata a finire. Comunque la faccenda si arenò nel 1870, con la sospensione dei lavori per colpa della presa di Roma. Bella roba. Anche se in fin dei conti il concilio è sempre aperto. Una chiusura ufficiale non c'è mai stata. Manete in dilezione mea. Dico bene, Don Francesco? E come, Monsignore?» Il vescovo, scuotendo la testa a commento di quanto appena detto, proseguì a leggere, tralasciando il testo latino, e concluse: «Desideriamo ardentemente di sapere se voi, venerabili fratelli, nella vostra dottrina e prudenza, riteniate che si possa proporre e definire come dogma di fede l'assunzione corporea della Beatissima Vergine, e se questo sia anche il desiderio del vostro clero e del vostro popolo». A questo punto si appoggiò alla spalliera, meditando ad alta voce. C'era uno scritto dell'undicesimo secolo, giù di lì, se non mi sbaglio, che più o meno recitava: «Gesù Cristo, che è l'onnipotenza e la sapienza di Dio, che ha tutto in comune con il Padre, e perciò può tutto ciò che vuole e vuole tutto ciò che è giusto e degno, deve aver voluto la piena glorificazione della madre». «Ma questo, eccellenza, è lo pseudo Agostino!» esclamai. «Lo pseudo Agostino!» confermò il vescovo. «E bravo Piero! Oh, Don Francè, questo ragazzo ci darà delle soddisfazioni!» Arrossii in silenzio per quella lode, mentre Monsignor Angelici concludeva: «A mio modo di vedere, Pio XII aveva già definito la questione nell'enciclica Mystici Corporis. Com'è che diceva? Lei stessa, che ora risplende in cielo, nella gloria del corpo e dell'anima. Non solo dell'anima, quindi, ma anche del corpo. A pensarci bene, lo stesso dogma dell'Immacolato Concepimento porta in sé la conseguenza di quello dell'Assunzione in cielo, in anima e corpo. Se non c'è peccato originale, non può esserci nemmeno il castigo conseguenza della colpa. In altre parole, la morte, che ci siamo meritati per colpa del peccato di disobbedienza di cui si macchiarono Adamo ed Eva, non può essere imputata a colei che venne concepita senza peccato». «Ma se si accetta questo», mi permisi di intervenire, «la Madonna non dovrebbe mai essere morta». «È proprio così, Piero», confermò Monsignor Angelici. «Questo è esattamente il mio pensiero. Mi figuro la Madre di Cristo chiudere gli occhi un istante per riaprirli un attimo dopo trasformata nella nuova vita di luce. Un'autentica sublimazione, un po' come fa il ghiaccio quando, investito da un calore immenso e improvviso, si trasforma istantaneamente in vapore, senza passare dallo stato liquido dell'acqua. Oh, intendi bene, questo non è solo il mio parere. Ci sono fior di teologi che affermano che la Vergine sia passata direttamente dalla vita terrena a quella celeste, senza subire l'esperienza della morte. È una questione aperta, mai chiarita. D'altronde, se così non fosse, non saremmo oggi qui a chiederci di definire o meno il dogma. Oggi è giunta l'ora di chiarire definitivamente la questione dell'assunzione in cielo di Maria. Se sono tanti secoli che la festa viene celebrata, un motivo dovrà pur esserci. Ormai non è più il tempo di lasciare la cosa indefinita. La mia opinione è che oggi, una volta definito il dogma dell'Immacolata Concezione, l'idea di non ammettere anche l'assunzione in cielo apparirebbe un'imprudenza. Dirò di più, uno scandalo. Sì, proprio uno scandalo. Credo che dirò questo nella mia risposta a Sua Santità. Uno scandalo. Poi lesse le poche righe del documento che restavano fino alla fine. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Carlo Pedini, La sesta stagione, Cavallo di Ferro Editore, 702 pagine, 19 euro. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i cappellani militari erano figure di riferimento e di sostegno sia per i soldati impegnati al fronte, sia per i loro parenti, che da casa attendevano di avere notizie dei loro cari. Nel volume Dio e Patria, Paola Chiesa ha raccolto le biografie di 110 cappellani militari lombardi, corredate da lettere inedite inviate dal fronte o dalla prigionia. Completa il volume la testimonianza di Monsignor Mario Ornati, che pur non un cappellano militare, era in stretto contatto con i soldati e con le loro famiglie. Nelle sue parole, il ricordo di Vigevano durante i bombardamenti. Avevamo tutti paura. In cielo volava sempre un aereo che bombardava senza guardare in faccia a nessuno. Ha bombardato una casa vicino alla stazione. Morti moglie, marito e figlia. Altri due uomini sono morti mentre riposavano. Ah, la guerra. Nel settembre del 1943 fu letteralmente mitragliato un treno mentre percorreva il ponte sul fiume Ticino. All'epoca ero cappellano anche presso l'ospedale di Vigevano. In quella circostanza ho composto 36 morti in una chiesetta vicino al cimitero. Fui anche elogiato dal comandante perché prelevai dai corpi gli orecchini, gli anelli, le catenine e tutti gli effetti delle vittime per consegnarli personalmente ed esclusivamente ai parenti stretti. Lo sottolineo. Personalmente ed esclusivamente ai parenti stretti. In ospedale era ricoverata una ragazza. A causa del mitragliamento del treno le avevano amputato una gamba. Mi diceva sempre: «Don Mario, per favore recuperi la mia borsa con tutti i miei documenti ed effetti». Risposi di sì. Un uomo disse di aver trovato la borsa. Volle a tutti i costi consegnarla di persona alla ragazza, senza il mio tramite. Pensi, ebbe il coraggio di chiederle del denaro. Era una grossa somma. Non ricordo di preciso quanto. Prontamente dissi: «Te li do io i soldi. Quella povera ragazza non ha più nulla. Vado a prenderli. Aspettami qui». Mi feci dare la somma e tornai dall'uomo. Nel tragitto di ritorno, però, mi ero fermato dai carabinieri. Avevo raccontato tutto. L'uomo intanto mi aspettava, come da accordi. Mi misi a contare i soldi davanti a lui per dimostrare la mia onestà. Contai banconota per banconota. I carabinieri arrivarono proprio al momento giusto, proprio mentre stavo consegnando il denaro nelle sue mani. Lo arrestarono. Ricordo in particolare un soldato di Cosenza. La madre prese il treno e venne a trovarlo, per vederlo, per riabbracciarlo. All'epoca non era così semplice attraversare l'Italia in treno. Ebbe un ictus proprio qui a Vigevano e morì. Ci teneva talmente tanto quel ragazzo che celebrassi io il funerale che sono partito. Sono partito in treno per Cosenza. Non mi è mai pesato viaggiare. Non mi sono mai lamentato. Mi spostavo e basta. Era giusto così. Mi sono sempre spostato per aiutare e rendere felice il prossimo. Non ho mai chiesto niente in cambio. Niente. Non concepisco un prete che non sta con la gente, con la sua gente. Ero contento se riuscivo a renderli contenti. Ero felice se loro lo erano. Di cappellani veri oggi ce ne sono pochi. Un prete non deve indossare la divisa solo per farsi vedere. Io tutti i giorni, dalle 11 alle 12, ricevevo i militari che avevano bisogno. Dicevo sempre messa. E quanti soldati a sentirmi. Avete ascoltato le letture di alcuni passaggi del libro di Paola Chiesa, Dio e Patria, i cappellani militari lombardi nella Seconda Guerra Mondiale. Mursia Editore, 332 pagine, 24 euro.